5 indiecitos, 4, 3, 2 indiecitos, 1 indiecito es. 1, 2, 3 indiecitos, 4, 5, 6 indiecitos, 7, 8, 9 indiecitos, 10 indiecitos son. 10, 9, 8 indiecitos, 7, 6, 5 indiecitos, 4, 3, 2 indiecitos, 1 indiecito es. 1, 2, 3 indiecitos, 4, 5, 6 indiecitos, 7, 8, 9 indiecitos.